E tornati proprio sulle onde disgraziate, quantomeno insomma quelle sia di Pussy Galore che quelle di Royal Trax. Ovviamente insomma si fa per dire, ovviamente perché piace qua 451 creare dei fil rouge, no? Qua sono un rosso sangue, ecco, direi, e anche piuttosto insomma andato in putrefazione, potremmo dire, questo sangue, sia quello di Pussy Galore che di Royal Trax. Abbiamo concluso una prima parte di noise rock con Big Black di Steve Albini, con quel tanto di rumore industrial, rock, noise, post hardcore, e anticipatore poi di quello che sarà appunto il mat rock che creeranno proprio Albini e i suoi collaboratori con il progetto insomma altrettanto importante oltre a Big Black di Shellac, anche se magari meno noise o comunque con un noise più codificato quello di Shellac. E sicuramente anche per quanto riguarda Pussy Galore che Royal Trax, che hanno in comune quindi in questo caso il filo rosso di cui accennavo prima è dato da Neil Haggerty, che sia nei Pussy Galore, formazione storica per già dalla metà, insomma, nella seconda metà degli anni Ottanta, famosa per una cover di Struzen Neubauten, per quanto insomma si possa diventare famosi con una cover appunto dei tedeschi, ma poi insomma distruttori già a metà degli anni Ottanta di quel suono rock classico che già a metà degli anni appunto Ottanta era considerato tale. Se pensiamo insomma al rifacimento come primissimo lavoro a Exile on Main Street dei Rolling Stones, pensiamo insomma a un modo di intendere il rock and roll, perché no, come qualcosa di assolutamente selvaggio, qualcosa che deraglia di suo, quindi il noise viene da sé, con tanto anche di forme insomma di rock and roll isterico e di atteggiamenti che insomma provengono chiaramente insomma da un certo modo di intendere anche il punk, magari il punk inteso come garage, come garage rock, quindi fine anni 60, come anche capacità di mettere su dei pezzi non sapendo suonare, ma mettendoci appunto energia, nervi e urgenza, in questo senso sì, una specie di garage mischiato poi nel blues e in una forma di deterioramento ancora più spinto, quello di Royal Trax, appunto altro progetto di Neil Haggerty insieme a vari personaggi, ma in particolar modo insomma alla Jennifer Rema, personaggio che veramente più rock and roll, ma in termini appunto di noise, e soprattutto perché quando si parla di Pussy Galore e di Royal Trax non si può parlare e non citare insomma quello che è stato il lo-fi, lo-fi appunto questa potremmo dire questo linguaggio che proviene dalle cantine, dai garage psichedelici della fine degli anni 60, dove appunto il blues veniva suonato male, ma perché non erano capaci di suonare, appunto era l'urgenza che dettava quei pezzi incredibilmente potenti, con quel senso insomma di ribaltamento, anche se vogliamo, della classicità che già certo rock stava prendendo, certo rock and roll, se pensiamo insomma che per molti versi insomma quello che era stato che era successo insomma alla metà degli anni 50, alla fine dei 60, era molto molto distante sia da Gioventù Sonica, per citare altri noiser, alternative rock, e stavano succedendo soprattutto delle cose che portavano verso un suono e una sperimentazione, se non direttamente sonora, comunque sicuramente umana e esistenziale, oltre che insomma legata appunto a un linguaggio giovanile che all'epoca esplodeva, andava a impattare con quello che poi diventerà noise in termini insomma di noise rock. Questo insomma è quello che sia Pussy Galore prima e poi Royal Tracks riusciranno a riprendere, ovviamente con tutta l'acqua che è passata poi da sotto i ponti, insomma, in termini insomma di accanimento su una sorta di classicità che veniva, come dicevo prima, ribaltata e quindi tornata a essere selvaggia come nel primissimo periodo del rock and roll. Se questa cosa veniva in America e poi ha avuto modo insomma di creare anche quello che appunto il lo-fi, l'alternative rock, soprattutto insomma nella seconda metà degli anni 90, anche alleggerendo il tutto, da un'altra parte del mondo, in Giappone, succedeva che le Razzile Denude, ascoltate nella prima parte di questo 451 Noise Rock, insegnavano come si potesse poi di fatto, insegnanti legati ovviamente a essere cattivissimi maestri, a suonare un rock and roll talmente alieno da quella che è la classicità, ovviamente insomma va da sé, americana, che andava in un altrove, che era quello appunto del noise, della creazione insomma del noise rock, se vogliamo considerare appunto i giapponesi e la Rize e Razzile Denude appunto padri di questo suono, ma non sono solo io a dirlo, anzi sono ben più accreditati critici musicali che parlano insomma di questo. Figliocci deturpati, per quanto insomma degeneri, ne hanno avuti tanti anche e ne hanno ancora tanti, Razzile Denude, sicuramente Natarash, che proprio alla metà degli anni 80 metteva su appunto le sue diavolerie, mettevano su, anche se poi parlo soprattutto al singolare, perché Yamazuka è soprattutto a creare questo combo di pazzoi, di scatenati appunto di noiser, che portavano all'estremo. Se le Razzile Denude negli anni 70 avevano portato all'estremo l'hard rock, portando veramente su altri lidi, qua è il punk preso veramente per, non solo per la cresta e quindi per i capelli, ma anche proprio per la gola, fatto proprio strozzare e reso appunto una sorta di mostruosità ulteriore, quella di Anya Tarash, appunto progetto di Yamazukai, e cosa che poi tra l'altro farà quasi parallelamente con anche l'altro suo progetto straordinario, Boredoms, che arriva insomma più o meno fino ai nostri giorni. Sentiamo quindi come da un'altra parte, insomma, ci spostiamo dalle Americhe di Pussy Galore e Royal Tracks a quelle appunto giapponesi di Yamazukai con il suo progetto Anatarash, che tra l'altro diventerà anche progetto rumorista tout court, ecco, potremmo dire anche di collagismo sonoro addirittura. Ma nel primo periodo, appunto metà anni 80, suonavano in Giappone queste diavolerie appunto noise.

E sentiamo ancora i Pussycat lamentarsi. Pezzo straordinario invece quello che è appena concluso di Lightning Bolt, che quando ci si mettono veramente la sparano noise a livelli veramente esuberanti, ecco, quantomeno. Lightning Bolt, che sono stati una delle formazioni senz'altro più importanti, sia per quanto riguarda in termini organizzativi, ecco, perché Brian Chippendale è stato uno dei primi a occupare Fort Thunder, Rhode Island, Providence, dove tra l'altro, città molto importante, nasce buona parte, insomma, del nuovo noise americano, quello degli anni zero, per intenderci, di Wolf Eyes, Sightings, anche se va bene, erano più su zona New York loro, ma insomma Wolf Eyes, Dead Machine, eccetera eccetera, cose che 451 è particolarmente affezionato, perché nascevano tra l'altro proprio in concomitanza con appunto la nascita della trasmissione, e con un'esplosione, una riesplosione del noise, che per un po' di anni, insomma, si era attutita dentro, insomma, tanto indie rock, anche se abbiamo sentito poi con Royal Trax, anche se poi anche loro, insomma, alla fine degli anni 90 non alleggeriranno tanto il colpo, ma sicuramente si faranno più formalmente corretti in termini di rock rispetto a un disco pazzesco, al pezzo tratto da Twin Infinitive che abbiamo ascoltato prima, roba marcia su serio, insomma, divorata la classicità, ecco, divorata veramente da ratti giganteschi, mi viene da dire. Lightning Bolt, quindi con Brian Chippendale, organizza quello che è una sorta di missione noise, partendo da Providence e poi allargandosi, insomma, in buona parte d'America. Con suoni che potremmo prendere veramente dal noise ascoltato fino adesso, e che ascoltavano evidentemente anche la Lightning Bolts, il post-hardcore che attraversa, insomma, sia Butter Surfs che Big Black, ma tante formazioni, stesso Pussy Galore, insomma, e anche Anatarash, no? Seppure devianze più, diciamo, punk noise, vicino all'altro famoso genere noise, sottogenere japa noise. Lightning Bolt hanno tutte queste cose tra le loro, insomma, tra le loro, potremmo dire, cognizioni, ecco, e ci aggiungono dello speed metal, quindi del metal esasperato in termini chitarristici, anche un'attitudine free jazzistica, probabilmente in termini di tiro, quella volontà anche, insomma, di veramente tirare allo spasimo, che si associa tra l'altro con quello che appunto era l'hardcore, e che evidentemente, insomma, si era trasformato da post-hardcore in qualcos'altro di ulteriormente diverso, appunto differente, con Lightning Bolts e con la Load Records, appunto, che girava intorno a loro. Sono stati, insomma, dentro anche una sorta di, insomma, di hype underground, Lightning Bolts, per molto tempo, insomma, negli anni zero si è parlato di loro, insomma, dei loro dischi erano abbastanza così scandalosamente noise, ma suonavano anche piuttosto nuovi, e noi abbiamo però voluto tributare, insomma, giustissimo tra l'altro, a mio avviso, tributo Lightning Bolts con il loro ultimo disco, che avete sentito, no? un pezzo insomma che dice lunga sullo stato di forma ancora di Lightning Bolts, che non sono vecchissimi, appunto, stiamo parlando insomma dei primi anni zero come prime uscite, e sono uscite del 2019, quindi insomma appena ventenni musicalmente, ma queste musiche insomma logorano quantomeno, e comunque appunto Lightning Bolts con la loro miscela esplosiva e con appunto quella capacità organizzativa riusciranno poi a creare appunto quello che è andato anche oltre insomma al loro bagaglio sonoro decisamente insomma noise, se pensiamo insomma ai citati prima ad esempio Wolf Eyes in primis, che passarono per un momento anche Lightning Bolts ebbero per un periodo insomma corteggiamenti dalla parte delle major, ma insomma andò tutto un po' così, proprio perché sono personaggi proprio radicali e radicati, insomma, in un certo modo di intendere il suono e il linguaggio, un atteggiamento insomma che potremmo dire anche per molti versi insomma politico, se appunto non nascondessero questo essere politici anche con un senso così molto giocoso, guastatore quanto vogliamo, ma legato a un gioco che attraversa buona parte insomma dei noiser americani, partendo appunto da Lightning Bolts. E invece spostandoci insomma abbiamo fatto America, Giappone, adesso ci spostiamo in Australia, una sorta di mappatura noise, mappatura del terrore rock noise. Dead Sea, veramente forse i grandi, ecco, se negli anni 90 dicevo un po' si era alleggerita tutta la faccenda rispetto a certi anni 80 che invece passano per essere molto patinati, ma non lo erano soprattutto insomma in termini insomma di rumore, anzi la patinatura di molte cose anni 80, molte confezionate andava di pari passo e veniva contrastata in maniera antagonista anche da un modo di intendere il rumore sempre più come tale, anche più graffiante, se pensiamo insomma a progetti legati ad esempio alla Power Electronics, Via White House, ma queste sono facendo insomma extra rock. Dead Sea negli anni 90 creano quella che poi è stata anche messa sotto manifesto dal gruppo che sentiremo dopo, sempre figlioci loro per molti aspetti, Birchville Cat Motel, quello che nel manifesto appunto è definito come free noise, ovviamente insomma il noise già di per sé dà quella appunto libertà, ma quel free è legato a un modo di intendere appunto la composizione noise, per quanto insomma anche uno potrebbe storcere il naso, non solo quello, rispetto alla parola compositiva per quanto riguarda questi progetti, invece qua ci vuole capacità ancora più compositiva, perché si sta trattando con noise, quindi con qualche cosa che sfugge evidentemente mente e tra le mani con molta molta facilità, quindi bisogna quantomeno quantomeno essere capaci insomma come dire di tenere a bada suoni che veramente vanno da tutte le parti, anche quelle più impensabili. Dead Sea col free, quindi intendono anche unirsi insomma a una composizione di tipo improvvisativo. Abbiamo sentito comunque anche così delle vaghezze che sono anche molto interessanti appunto in quanto anche tali vaghe impro rock, legate però insomma di diretta affiliazione free improvvisativa, e qua quindi c'è questo capacità di raccogliere quella eredità eccezionale che negli anni 90 tra l'altro stava facendo anche nuovi proseliti in tempo proprio più strettamente impro radicali, e invece per quanto riguarda appunto Dead Sea si va verso quella deformazione compositiva, che poi non sarebbe altro che un ulteriore passo insomma in termini di composizione appunto di arte dei rumori, in questo caso utilizzando una strumentazione e un'attitudine anche rock. Dead Sea e poi Birchville Cat Motel, per molti aspetti loro filiazione con produzioni anche insomma con sonorità che vanno a prendere evidentemente da quella appunto che è stata una delle formazioni più importanti, senz'altro negli anni 90 senz'altro la più importante per quanto riguarda il noise rock. Dead Sea. Sono 36 minuti, signori e signore, quindi insomma sì, perdonatemi insomma il taglio, il fade out ho dovuto fare su appunto questa splendido pezzo di Birchville Cat Motel, la Beautiful Spec Triumph, quindi anche una specie di ironia molto insomma anche qua giocosa, anche se i suoni sono tutt'altro che giocosi, anzi qua abbiamo sentito prima i maestri appunto Dead Sea e poi allora i loro appunto figli Birchville Cat Motel, che lavorano su quello che è un muro chitarristico molto debitore ovviamente dal primo minimalismo di Tony Conrad, di John Cale, e quindi passando insomma per varie faccende che ci portano fino a Glenn Branca, a Rhys Chatham, che non abbiamo citato ma sono insomma, adesso lo facciamo, i grandi costruttori, i pionieri di questo suono massimalista, non l'abbiamo citati ma tante volte sono passati da 451 frammenti sonori e passeranno ancora, tra l'altro non abbiamo di certo insomma eremore del genere, diciamo insomma che sono lavori che veramente hanno una vitalità incredibile, e abbiamo sentito quanto poi appunto un noise si sia spostato, il noise rock, da forme post-hardcore, chiamiamole così genericamente, punk noise, e poi verso anche sonorità drone noise, quindi un suono chitarristico che va a prendere insomma dai grandi che accennavo prima, sia Glenn Branca che insomma la varia dinastia di noiser, che a loro volta insomma avevano preso dai grandi minimalisti, dai primi minimalisti, quelli che lavoravano insomma su forme e anche potremmo dire insomma brutali del suono, il suono brutto, grezzo insomma di anche di, certo che ne so, Phil Niblock di certe cose dei primi anni 70. Io vi lascio con una faccendina insomma non da poco, uscita da pochissimo. Scusate il bisticcio di parole, Sicker Man insieme a Manuel Klotz, disco appunto del 2023, ecco, come giovani noiser Sicker Man un pizzichino meno, per già insomma nel giro nella sound art dell'elettronica e con anche passaggi nel rock. Per quanto riguarda invece Manuel Klotz, invece direi decisamente fresco, visto che la prima uscita è del 2020. Ci andiamo appunto a sentire questo Havoc per qualche minuto, così abbiamo voluto concludere, come dire, con qualcuno avrebbe detto con i super giovani qualche anno fa. Va bene, Max Macchia vi saluta e vi rimanda al prossimo 451 frammenti sonori. Fate i bravi, ciao ciao ciao ciao.